La sentenza arriva dall'alto di British Airways. All'Italia difficilmente può sopravvivere. Le parole di Willie Walsh, amministratore delegato di BA, tuonano come un epitaffio per la nostra compagnia di bandiera al centro delle polemiche per il prestito ponte di 300 milioni varato dal governo. Il sostegno finanziario del governo italiano non è giusto e altera la concorrenza, ha aggiunto Walsh, unendosi al coro di catastrofisti come Jean-Cyril Spinetta, presidente di Air France-KLM, ormai fuori dalle trattative, secondo cui solo un esorcista potrebbe ormai salvare Alitalia. Parlando da Istanbul, dall'Assemblea Nazionale delle Compagnie Aeree, il numero uno di British Airways ha auspicato un netto intervento dell'Unione Europea contro le mosse finanziarie in corso per salvare Alitalia. La situazione di Alitalia dovrebbe essere risolta dalla stessa compagnia e non dal governo italiano. La Commissione Europea deve prendere una posizione forte per avere credibilità non solo in Europa, ma in tutto il mondo, ha detto Walsh, preannunciando la fine per la nostra compagnia, arretrata rispetto all'Europa e in grave crisi ancor prima che a mettere in pericolo di vita le compagnie aeree fosse l'aumento del costo del petrolio. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra.